Europa 24. Buongiorno da Gigi Donelli, bentornati all'appuntamento con Europa 24 in una giornata decisamente delicata. Che cosa accade a Bruxelles? A Bruxelles ormai di fatto da qualche ora, intorno alle 11, si sono aperti i lavori di questo doppio vertice, o meglio, doppio ma che punta ad affrontare, non usiamo la parola risolvere, per carità, affrontare dunque il grande tema dell'immigrazione. Doppio appunto perché prima di fatto è Unione Europea-Turchia, dopo invece la questione tra i 28 su quello che è il grande tema, per così dire, della salvaguardia di Schengen. Allora, all'arrivo naturalmente molti gli interventi, vale la pena segnalare quello del premier greco Alexis Tsipras, che dice: tutti devono attuare le decisioni comuni, perché uno dei principi fondatori dell'Europa è condividere responsabilità, oneri e solidarietà. Io auspico che questi principi e regole valgano per tutti. Qual è la posta in gioco? Cioè, il grande pericolo che la Grecia vede in questi giorni, in queste ore, è che la decisione di chiudere di fatto la rotta balcanica, quella rotta appunto che, per intenderci, dalla Siria attraverso la Turchia risale appunto i Balcani verso i paesi ricchi dell'Europa, venga bloccata per un accordo comune. Il risultato, in una prospettiva greca, è che quel campo che proprio in questi giorni noi stiamo raccontando attraverso la nostra inviata Valentina Furlanet, il campo di Diomeni, quindi al confine tra Grecia e Macedonia, diventi il luogo di scarico di migliaia e chissà quanti appunto immigrati che cercano di raggiungere l'Europa centrale. Questa dunque la preoccupazione di Tsipras, peraltro condivisa direttamente dal suo collega Matteo Renzi, che vede invece un altro rischio: il flusso dei profughi rimbalza di fatto sul muro macedone, entra quindi in territorio albanese e da lì attraversa l'Adriatico verso la Puglia. Altri commenti: dobbiamo fare uno sforzo per porre fine con questa strana, ma non qualificarla altrimenti, situazione che si è prodotta in Europa con l'Austria che ha chiuso le sue frontiere e poi anche la Macedonia e la Croazia, e sta creando una situazione gravissima in Grecia, ma non solo. Così il premier spagnolo Mariano Rajoy, arrivando dunque al summit. Aiutiamo la Turchia, dice, ma in cambio chiediamo che riprendano i profughi che arrivano da lì. Insomma, tutti, diciamolo, in questa fase cercano di spostare il problema possibilmente indietro. Il punto con Beda Romano. In attesa di una risposta più strutturata all'emergenza rifugiati, i 28 si riuniscono oggi qui a Bruxelles per rilanciare il recente piano di azione con la Turchia, con l'obiettivo di frenare l'arrivo di migranti dal vicino Oriente. Due gli elementi del vertice di oggi: la chiusura della rotta balcanica ai migranti economici irregolari e il ritorno dalla Grecia alla Turchia dei migranti irregolari che non hanno bisogno di protezione internazionale. Il piano, pur logico, è fonte di contrasti. C'è il timore da parte della Grecia che il paese diventi un enorme campo profughi in assenza di misure efficaci per decongestionare il territorio nazionale. Il ricollocamento in tutta l'Unione dei profughi arrivati in Grecia e in Italia stenta infatti a decollare. C'è poi la preoccupazione che la chiusura della rotta dei Balcani possa indurre i migranti a cambiare strada, attraversare l'Albania per arrivare in Italia. Il vertice di oggi verrà seguito da un altro incontro a 28 a metà mese, durante il quale i capi di Stato e di Governo discuteranno di soluzioni più strutturate alla crisi di questi mesi. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. I migranti che non hanno bisogno di protezione, chi sono? Sono quelli appunto che non vengono riconosciuti come profughi, ma come migranti economici. Una questione che negli ultimi 3 anni di fatto ha portato a confondere queste due figure. Ora l'Unione Europea, per affrontare questa crisi, intende invece rendere netta la distinzione. Vi segnalo solo un'ultima notizia prima di chiudere. Su questa giornata, su queste giornate, si esprime anche il Regno Unito. Cameron dice: La Gran Bretagna su questo tema ha un opt-out solido come una roccia, così appunto David Cameron. Abbiamo il nostro approccio sull'asilo e sulle frontiere, manteniamo le nostre frontiere e il nostro modo di fare le cose. Insomma, il clima prevertice è quello che in fondo si legge anche attraverso queste dichiarazioni. È tutto per Europa 24, noi ci risentiamo domani intorno alla stessa ora. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.